e bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il nostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Dunque, bentornati all'ascolto, quindi all'inizio di una nuova stagione radiofonica. Un saluto dallo studio di Bruxelles da Annalisa e da Roberto Giava in regia. Buonasera a tutti. E in collegamento Alessandra. Sì, esatto, buonasera Annalisa, buonasera Roberto e bentornati ai nostri cari amici radioascoltatori. Come sempre è un giro di boa al passo con l'attualità. Dopo quasi quattro mesi dalle elezioni anticipate del 13 giugno scorso, dopo la caduta del governo sulla questione della scissione di Bruxelles da Alle Vilvoorde, il Belgio, nel bel mezzo della presidenza dell'Unione Europea, è ancora senza governo. Come vi ricorderete, lo scorso giugno avevamo approfondito le dinamiche dietro questa crisi. Quattro mesi dopo cercheremo di capire con i nostri ospiti perché i partiti usciti vittoriosi dalle elezioni, separatisti fiamminghi della ANV, che sono emersi come il primo partito, e i socialisti francofoni arrivati secondi, non sono ancora riusciti a trovare un accordo. Il 3 settembre scorso il leader socialista francofono Elio Di Rupo ha le mani del re il mandato per formare un nuovo governo. E Alberto II ha poi incaricato i presidenti di Camera e Senato, André Flahaut e Danny Peeters, di rilanciare i negoziati. E lo scorso lunedì anche Flahaut e Peeters hanno rimesso il mandato dopo la rottura dei negoziati da parte dell'NVA. Il re, Alberto II, ha iniziato una nuova fase di consultazioni. Il deputato fiamminco Eric Van Rompuy, che è il fratello del presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, ha dichiarato che il Belgio è clinicamente morto. Uno in studio, che già credo sia già presente. Davide, ci sei? Sì, buongiorno, buonasera piuttosto. Sì, buonasera, allora il primo ospite sì. In studio si chiama Davide Coppi, giornalista del quotidiano L'Etoile dal 2002. Si occupa di politica interna, italiano nato in Belgio, diplomato in scienze politiche e giornalismo all'ULB. Abbiamo anche un secondo ospite in collegamento telefonico, Francesca, ci senti? Sì, buonasera. Buonasera, grazie per essere per intervenire. Il secondo ospite in collegamento telefonico è Francesca Venturi, da gennaio di quest'anno, corrispondente da Bruxelles dell'AGI, la seconda agenzia di stampa in Italia con sede a Roma. Francesca lavora già nella redazione di Milano da più di 18 anni, si è sempre occupata di economia, ma ha anche seguito cronaca giudiziaria e politica italiana. Dunque, io incomincerei subito con una battuta. Volevo chiedere ad entrambi i nostri ospiti una battuta. Dopo 116 giorni dal risultato delle urne, il Belgio è ancora senza governo. Annalisa diceva prima, citava, il Belgio è clinicamente morto. Cosa ne pensate? Francesca? Ma è una situazione un po' surreale, che io trovo abbastanza, mi stupisce abbastanza, non mi aspettavo di trovare una situazione così, sinceramente. Non so se mi sono trovata io in questa fase o se il problema si trascina da tempo. Mi dà proprio l'impressione di una situazione un po' surreale, perché c'è stato questo tentativo, questi reiterati tentativi con tutti questi partiti, quindi mi viene proprio la definizione che mi viene è surreale, ispirata anche dal surrealismo belga, insomma, dai pittori surrealisti. Questa è la sensazione. Davide, una sensazione sì. Da belga? Sì, una situazione surreale, penso che è vero. Siamo in un paese che questi tipi di problemi li conosce ora da molto tempo, da anni. Siamo in un paese dove ci sono state diverse riforme profonde dello Stato questi 20 ultimi anni, che hanno trasformato profondamente il Belgio, che è diventato un paese federale, con un'autonomia molto forte delle regioni, e questo processo, insomma, continua. E in questo momento sono qualche anni che c'è una pressione terribile dalla parte degli autonomisti fiamminghi, ecco. E non scordiamo che le ultime elezioni del 13 giugno hanno visto trionfare nel nord del paese un partito che si chiama la NVA, di Bart De Wever, che ha realizzato 28%, che ha ottenuto 28% dei voti, 27 seggi alla Camera dei Deputati, e che è il più forte partito nella parte fiamminga, e che è un partito separatista nel suo programma, ecco. Non è che sia un discorso così tanto per fare, è un programma separatista. Dunque, questo partito, come fare un compromesso con questo partito? Come gestire con questo partito una tappa importante nell'evoluzione del Belgio, che non sia la tappa conclusiva, definitiva? Come dice Rick Van Rompuy, il Belgio è clinicamente morto. Io penso che in questo momento i politici di diversi partiti ancora non hanno abbandonato la speranza che ci sia ancora un Belgio possibile. Davide, ti vorrei chiedere di spiegare ai nostri radioascoltatori quelle che sono le questioni principali, le questioni spinose su cui si stanno incentrando i negoziati. Se non sbaglio sono la riforma istituzionale, i mezzi supplementari a disposizione di Bruxelles e una nuova legge finanziaria federale. Ecco, puoi spiegare ai nostri radioascoltatori di che cosa stiamo parlando e quali sono le posizioni dei principali partiti su queste questioni? Beh, il problema è che le posizioni sono che i partiti fiamminghi, con la NVA in testa, che le trascina tutti, vuole nel suo programma l'indipendenza delle Fiandre. Comunque, politicamente, per i prossimi anni vuole molto più autonomia per le regioni, molto più autonomia, molto più competenze, e sicuramente sul piano fiscale. Tu parlavi della legge finanziaria. La legge finanziaria in Belgio è la legge che organizza e che rilascia le dotazioni pubbliche ai diversi poteri, i poteri delle regioni, lo Stato federale, eccetera, che organizza il Belgio sul piano fiscale, sul piano finanziario. E la NVA e i partiti fiamminghi, loro vogliono che la regione Flamande abbia la sovranità, possa decidere da sola, possa decidere sola delle sue imposte, delle impôts des personnes physiques, un'autonomia massima, ecco. E poi ci sono altre cose, c'è il dissenso su questa circoscrizione elettorale al centro del paese, che si chiama BHV, dunque Bruxelles al Vilvorne. Ecco, insomma, sono i due grandi problemi che i politici non riescono a risolvere. Io avrei una domanda per Francesca. La crisi accresce ovviamente la preoccupazione dei mercati. Il debito pubblico del Belgio è il terzo della zona euro, dopo quello di Grecia e d'Italia. Entro il prossimo anno probabilmente sfonderà il 100% in relazione al prodotto interno lordo. Quali sono le implicazioni di una crisi di questo tipo? E dunque il fatto che, come dicevo prima, dopo 116 giorni il paese è ancora senza governo e probabilmente non lo avrà in un futuro prossimo. Quali possono essere le implicazioni di una crisi di questo tipo sull'economia del paese, sapendo anche che stiamo vivendo una congiuntura non proprio favorevole? No, in effetti è una situazione un po' delicata. La coincidenza della crisi governativa belga con la sua presidenza di turno dell'Unione Europea, in un momento in cui fra l'altro si sta proprio discutendo della riforma della governance a livello europeo, con una maggiore attenzione proprio al problema del debito, tutto rende molto complicata la cosa. Io ho visto che in effetti l'altro giorno il re ha fatto un appello al presidente del consiglio uscente, diciamo, che è quello che sta gestendo l'ordinaria amministrazione, a garantire oltre all'ordinaria amministrazione anche la corretta gestione dei conti pubblici, perché effettivamente con solo l'ordinaria amministrazione il rischio che la situazione peggiori c'è. In effetti il collegamento fra questa crisi e il fatto che il Belgio ospita le istituzioni europee rende la cosa ancora più problematica, perché effettivamente anche simbolicamente è un cattivo segnale il fatto che non ci si riesca a mettere d'accordo nel paese che ospita il simbolo dell'unione fra soltanto due lingue. E dal punto di vista economico effettivamente la situazione è delicata, è molto delicata, ma lo è in generale per l'Europa. Fra l'altro noi italiani ne sappiamo qualcosa, perché il debito pubblico italiano è più alto di tutti, adesso è stato superato da quello greco, però insomma siamo in una situazione delicata anche noi. E in effetti le diplomazie internazionali stanno lavorando perché questo problema del debito venga considerato in maniera, diciamo, un po' meno rigida rispetto a quello che si prefigurava qualche tempo fa. È una cosa che insomma è ancora in discussione e speriamo che la situazione della crisi politica del Belgio non aggravi la situazione dei conti pubblici. Nei mercati la preoccupazione è più generale e non riguarda tanto il Belgio, non credo che il Belgio sia considerato un gravissimo problema a livello internazionale come per i mercati finanziari, non mi sembra che fino a questo momento ci sia stato un rischio debito sovrano belga, non mi sembra che sia stato fra le cose che hanno provocato i problemi finanziari dello scorso periodo. David, il leader dell'NVA De Wever ha chiesto quindi a tutti i partiti che i negoziati ripartano da zero per arrivare ad una riforma dello Stato e a una formazione del governo, ma quali sono ora i possibili scenari? Quindi il re ha iniziato una nuova fase di consultazioni, se non sbaglio i partiti liberali, sia fiamminghi che francofoni, non sono stati inclusi, quindi quali possibili scenari? Anche una curiosità, qual è il ruolo del re in questa circostanza e come può influenzare gli eventi? Sì, il re ha ricevuto i presidenti dei partiti, ma quello che hanno notato tutti, insomma, è che ha ricevuto i presidenti dei sette partiti che erano parte al negoziato da luglio, dopo le elezioni. Ecco. Dunque, quindi sta riconvocando gli stessi partiti? Sembra che sta riconvocando gli stessi partiti, che si potrebbe ricominciare su una fase di negoziato con i sette partiti. Dunque, dalla parte francese il Partito Socialista, il CDH di Joël Milquet e gli ecologisti, e dalla parte fiamminga la NVA di Bart De Wever, i cristiani democratici del CD&V, i socialisti dell'OSPA e i verdi di Groen, ecco, sette partiti. Comunque questo ancora, il gioco non è chiuso, finora il re non ha ricevuto i partiti liberali che avevano perso le elezioni il 13 giugno e che questi altri partiti hanno deciso di mantenere fuori dal negoziato, ecco. Anche perché in Belgio, a Namur, a Bruxelles, la regione Wallonne e la regione di Bruxelles e quello che si chiama qua la Communauté Française sono governate da coalizioni con tre partiti, Partito Socialista, CDH e Ecolo. Dunque questi tre partiti vogliono essere insieme ugualmente a livello federale. Sui scenari il re deve... un nome deve disegnare qualcuno che farà l'informateur o il mediateur, insomma, ecco. Siccome Bart De Wever ha detto che bisogna ripartire da una pagina bianca, beh, queste sono parole, sai, Bart De Wever anche lui ha discorsi suoi, insomma, ma vabbè, che se effettivamente lui considera che bisogna ripartire da una pagina bianca, allora ci vogliono mesi e mesi, ecco, per trovare una soluzione. Io non ci credo, penso che se questi partiti riescono a rimettersi insieme allo stesso tavolo del negoziato, poi si ricomincia con una serie di compromessi transitori che da luglio, insomma, sono stati raggiunti. Su alcuni punti c'erano già compromessi chiusi. Davide, tu citavi prima il risultato elettorale. La NVA ha ottenuto circa il 30% nelle Fiandre. 28%, sì. Il che rappresenta circa il 18% a livello nazionale. Il partito della NVA, a quanto pare, non è matematicamente indispensabile alla formazione di una maggioranza parlamentare dei due terzi. Dall'altro lato, politicamente non se ne può fare a meno, visto le cifre. Quali sono i possibili scenari? No, penso che per ora altri scenari che un negoziato, poi un governo con la NVA non ci sono, ecco perché la NVA ha stravinto le elezioni nelle Fiandre con 28% dei voti e 27 seggi alla Camera, e ha stravinto, ecco, e dunque gli altri partiti fiamminghi, a cominciare dai Cristiani Democratici, che erano tradizionalmente, storicamente il grande partito nelle Fiandre, che hanno perso molto il 13 giugno, questi di partiti non se la sentono di fare un governo senza la NVA, perché sarebbe come negare il, secondo loro, insomma, ecco, sarebbe come negare il voto popolare, ecco, insomma, non possono esporsi a una aggravazione per le. Al futuro, nel senso che Bardo Weber si presenterebbe come un martire, no? Come potrebbe stravincere ancora di più, ecco, le elezioni nel futuro. Dunque, uno scenario per ora, uno scenario senza la NVA non mi sembra possibile. Dunque, il problema intero è sempre questo: come fare per trovare un compromesso con un partito che nel suo programma è separatista, che nel suo programma vuole la fine del Belgio. Ecco. Allora, questo partito sì o no è pronto a sostenere un compromesso di legislatura di 4 anni, che per lui è una tappa certamente, ma che è un compromesso sul quale tutti possano sottoscrivere, e poi dopo 4 anni vediamo. Ecco, questo partito deve mostrare se sì o no è un partito possibile di governo per 4 anni, poi vediamo più tardi. Francesca, tu hai citato prima il primo ministro uscente Yves Leterme, che si è trovato ad essere un presidente, diciamo, dimezzato dell'Unione Europea. Il Belgio infatti ha assunto la presidenza dell'Unione lo scorso 1 luglio, quindi dopo le elezioni. Sicuramente una presidenza il cui ruolo adesso è stato ridimensionato dopo il Trattato di Lisbona. Ecco, vorrei chiedere a te, Francesca, e poi a David, quali sono secondo voi le ripercussioni finora della crisi interna sull'operato della presidenza di turno dell'Unione Europea. Insomma, se non sbaglio, la rottura dei negoziati è avvenuta lunedì, quando allo stesso tempo c'era il summit EU-Asia, appunto guidato dal primo ministro uscente Leterme. Francesca? Ma l'impressione è che se la stiano cavando bene, e che da un certo punto di vista, per fare una battuta, però insomma mi sembra che siano piuttosto contenti del fatto che, nonostante abbiano perso le elezioni, riescono a gestire ancora questa cosa prestigiosa. Loro si erano preparati a lungo, ovviamente la presidenza di turno era una cosa che si sapeva da tempo, fra l'altro si è inserita all'interno di un gruppo di 3 presidenze, c'è stato un accordo fra la precedente presidenza e quella successiva ungherese, quindi hanno fatto tutto un programma, e quindi il governo uscente era molto preparato sull'argomento. Il fatto di riuscire a gestire ancora tutti gli informali, i consigli così, e poi effettivamente, come hai detto tu, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il ruolo della presidenza di turno è molto ridimensionato. Effettivamente, appunto, la sensazione è che comunque se la stiano cavando bene, e che siccome questa cosa esula dall'ordinaria amministrazione, che è quella a cui sarebbero tenuti come governo uscente e non riconfermato dal voto elettorale, loro insomma tutto sommato appunto se la stanno giocando un po' come punto anche d'onore. Io la cosa che su cui volevo chiedervi una lumi, diciamo, è lo scenario della scissione, perché questa è una cosa di cui fino a un mese fa i giornali francofoni, che sono quelli che io sono in grado di seguire, vedevano veramente come una cosa improbabile e anche molto, molto negativa, quasi un po' neanche da prendere in considerazione. Però, come diceva il collega David, effettivamente il partito che ha vinto le elezioni è un partito che nel suo programma ha la scissione, e quindi questa cosa è curiosa, cioè bisogna capire se c'è la possibilità che succeda. Io mi interrogo su questa cosa, mi preoccupa anche abbastanza, perché effettivamente, sempre tornando al discorso europeo, una scissione che fra l'altro coinvolge molto pesantemente Bruxelles capitale, perché è l'oggetto del contendere alla fine dei conti, no? Non so, veramente la troverei proprio preoccupante per tutta l'Europa. Mi sembrerebbe ancora più preoccupante uno scenario del genere per l'Europa di quanto non lo siano i problemi economici, appunto, di cui si parlava prima, del debito, eccetera. Sì, David, una battuta sulla, magari sulla presidenza dell'Unione Europea e poi sì, sulla scissione. Sì, sulla presidenza dell'Unione Europea, certamente che il governo Leterme fa il suo lavoro, e penso che la presidenza si svolge in modo regolare, in modo accettabile, certamente, però non si può negare che se c'era in Belgio a quest'ora, a settembre, per esempio, i primi giorni di settembre, c'era un governo di pieno esercizio, un governo pienamente, un governo nuovo, insomma, con un ministro nuovo, è un certo tornante con meno importanze che di prima, ma è un'occasione persa per il Belgio di mostrare, ecco, quel che forse in termini di progetto politico, di iniziative, non ci sono grandi cose. Per il resto, sì, la scissione ormai è una realtà, è un scenario possibile. Non è lo scenario politico sul quale noi attualmente lavoriamo, è quello che è più probabile, ma è la situazione, lo scenario può precipitare, la situazione può precipitare, questo ormai si capisce, si sente tutti, e infatti anche dalla parte francese ci sono dei partiti, degli esponenti importanti di questi partiti, penso a Laurette Onkelings, che hanno espresso il piano dell'alternativa senza i fiamminghi, ecco. Comunque tutti i politici dalla parte francese, tutti, Laurette Onkelings e tutti gli altri, per tutti loro non è lo scenario, non è quello che vogliono, ecco, no? Loro dalla parte francese tutti i partiti vogliono un Belgio con un futuro, ecco. Però la situazione può precipitare, certamente. Prima di questo ci saranno altre tappe, no? Se il negoziato politico non arriva a nulla nelle prossime settimane, se non succede nulla di decisivo sul piano politico, allora probabilmente ha senso verificare qual è lo stato delle forze politiche, in che paese viviamo, ecco. Dove è probabile però che il risultato sia lo stesso. Probabile, però non si sa, perché la gente è sotto shock, e penso che dalla parte francese, ma anche fiamminga, non si sa, ecco, quale sarà il riflesso, la reazione in questa... In questa possibilità, ecco. Forse ci saranno delle elezioni, allora non lo so, ma comunque lo scenario politico ancora non è scritto, il re, ancora questi sette partiti che hanno lavorato insieme da luglio, probabilmente nelle prossime settimane ci riproveranno. Annalisa, io avrei, se sei d'accordo, un'ultima domanda prima di salutare i nostri ospiti. Ha dichiarato che l'Europa delle nazioni è un retaggio del passato, il futuro dell'Europa e dell'Unione Europea sarà post-nazionale o non sarà. Volevo semplicemente chiedere ai nostri due ospiti, magari prima a Francesca e poi a David, che cosa ne pensano di questa battuta di Verhofstadt, ovviamente alla luce di quanto abbiamo discusso questa sera. Francesca? È uno scenario piuttosto inquietante. Io penso che, io sono ottimista tutto sommato, e penso che poi alla fine l'idea dell'Unione Europea e l'idea dell'Unione degli Stati e degli interessi prevarrà. In questo momento sì, tanto che dire, io appunto resto piuttosto ottimista, penso che alla fine non... sì, ci saranno queste spinte, però poi in realtà sono spinte antistoriche, quindi alla fine l'obiettivo comune prevarrà. Davide? Sì, per Verhofstadt, perché si parlava di Verhofstadt, certamente Verhofstadt da quando è deputato europeo, ma anche prima, è un politico in Belgio che assume posizioni politiche molto coraggiose, molto interessanti, penso, e sul piano europeo si verifica molte iniziative, federalista, convinto, ecco, un discorso molto interessante, però vabbè. E probabilmente penso che questo discorso poteva essere quello della presidenza belga dell'esercizio, perché il Belgio è storicamente un paese molto europeo, insomma, ecco. E dunque questa crisi politica ci impedisce di dare questa spinta che forse poteva essere anche positiva per l'Europa. In generale anche io sono abbastanza ottimista, ma certamente che a questo punto mi sembra che l'Europa c'ha molti problemi e che politicamente io non vedo di grande, come si può chiamare, un gran capitano, un grande trascinatore, ecco, un centravanti, un, non so, un, vabbè, l'Europa dell'epoca Mitterrand-Kohl-Delors aveva qualcosa, si capiva il senso, si vedeva il futuro, insomma, la spinta, come dicevi tu. Certamente a questo giorno oggi non si vede molte cose, e per il resto c'è una grande cose per ora. Bene, dobbiamo purtroppo chiudere questa parte della trasmissione. Vorrei ringraziare i nostri due ospiti per il loro interessantissimo contributo alla trasmissione di questa sera, per aver partecipato. Davide Coppi, giornalista al quotidiano Le Soir, grazie David, e Francesca Venturi, corrispondente da Bruxelles dell'AGI, grazie Francesca. Buonasera, grazie. Buon lavoro ad entrambi e speriamo di riavervi presto ai nostri microfoni. Facciamo ora una pausa musicale. In collegamento con i 101.9 di Radio Alma trasmettiamo in diretta la prima puntata della stagione 2010-2011 di Giro di Boa, e con Annalisa adesso faremo l'excursus delle novità di quest'anno. Approfittiamo di questa parentesi musicale e poi Annalisa ci presenterà anche uno spettacolo che annunceremo tra poco, di Paolo Gaio e le sue teste matte. Novità nel panorama del palinsesto radiofonico di Radio Alma, e quest'anno sono almeno due. Una in onda il lunedì alle 21, si intitola I colori dell'anima, un programma di approfondimento spirituale dei temi del sociale. E il martedì invece alle 21, un'altra novità, Le Goût des Autres, l'équipe storica di Radio Sì, delle 18.30 il lunedì. Vito e Paola hanno trasferito la loro esperienza, la loro voce e il loro gusto anche in questa nuova trasmissione, che è davvero molto bella. L'abbiamo ascoltata in diretta l'altro ieri sera nella puntata zero. Allora lunedì dalle 21 alle 22 I colori dell'anima, e martedì dalle 21 alle 22 Le Goût des Autres. Annalisa. Beh, poi direttore, le classiche trasmissioni del palinsesto italiano di Radio Alma. Che sono quasi tutte lì. Lunedì alle 20 Noi volevamo savoir di Valentina, il martedì alle 20 anticipando di un'ora c'è il Bruxellando, e abbiamo perso quest'anno Jazz e dintorni, perché il caro Stefano Baldi è dovuto rientrare per motivi di lavoro diplomatici in Italia. Il mercoledì c'è sempre Diego con la sua corrente alternata, il giovedì c'è 100 città dalle 20 alle 21, c'è il Giro di Boa dalle 21 alle 22, il venerdì avremo ancora delle sorprese da annunciarvi. Questo è quanto per il palinsesto della stagione 2010-2011, e Annalisa, se hai voglia di parlarci del programma scoppiettante, dello spettacolo scoppiettante di Paolo Gaio. Sì, cari radioascoltatori, volevo annunciarvi quindi uno spettacolo organizzato dal gruppo teatrale Le Teste Matte, che presentano lo spettacolo La Parola ai Giurati. Titolo originale 12 Angry Men, di Reginald Rose, per la regia di Carolina Catoio Guida, e tra gli attori di questo gruppo Paolo Gaio, un caro amico di Radio Alma e di Giro di Boa. Cogliamo l'occasione per salutarlo e per fargli un grosso in bocca al lupo per lo spettacolo che andrà in scena 12 e 13 novembre alle 20:30 e il 14 novembre alle ore 17 al Teatro Saint-Augustin, Avenue Saint-Augustin 16, 1190 Bruxelles. Quindi ancora spettacolo organizzato dalle Teste Matte, la parola ai giurati. Volevo ricordare che questa puntata in diretta questa sera, 7 ottobre 2010, non sarà disponibile immediatamente nel podcast come d'abitudine, come sono abituati i nostri gentili radioascoltatori, per motivi tecnici. Il server si è riempito, capita anche ai server di averne piene, e non avremo questa puntata prima di qualche giorno, spero il più presto possibile, a metterla poi online. Del resto il nostro sito funziona sempre, radioalma.blogspot.com. trovate tutte le trasmissioni del nostro palinsesto e naturalmente tutto l'archivio delle puntate degli ultimi 5 anni. Ricordiamo anche Annalisa e dovremmo avere ancora Alessandra. Sì, c'è Alessandra assolutamente. Che siamo alla stagione di Giro di Boa numero, chi lo sa? 6, se non ricordo male. Credo anch'io che siamo alla sesta. Sì, siamo alla sesta. Siamo alla sesta. Alessandra, ti ricordi anche il numero dei giri? No, dovrei fare un po' di calcolo. Perché ricordavo che stavi tenendo il conto. Sì, no, infatti il conto c'è stagione per stagione, per cui magari la prossima volta diamo i numeri così li giocano tutti all'otto. Io lancerei uno di quei quiz, se ricordate, tipo Raffaella Carrà, pronto Raffaella, quanti sono i giri in 6 anni di programmazione? Un aiuto è facile, basta andare sul sito radioalma.blogspot.com, cliccare su Giro di Boa e contare le puntate, ma non basterà perché... E il podcast è iniziato, come sapete, soltanto durante il 2008 e non dall'inizio, la puntata venendo infatti dal 2005. E comunque, appunto, cari radioascoltatori, come avete ascoltato questa sera, un Giro di Boa sempre al passo con l'attualità. E infatti, rispetto a questo, io volevo dire a Roberto che se lui vuole lanciare un quiz, dovrebbe mettere a disposizione un premio di una certa rilevanza, in quanto non so se a voi è capitato di comprare il giornale L'Essoire, dove lavora uno dei nostri ospiti di questa sera, David Cott, il quale il giornale ha indetto un quiz molto particolare, non so se a voi è capitato di vederlo. Praticamente offre 3 mesi di abbonamento gratuito a chi indovina se il Belgio avrà un governo per il 31/12/2010. Questa è spassosa questa, ma anche noi possiamo mettere in palio una cosa simile. 3 mesi di ascolto gratuito della nostra emittente radiofonica. Ma io credo che siamo arrivati veramente ai minimi termini. Sì, agli sgoccioli del paese, diciamolo. Esatto, un giornale che offre un abbonamento doppio, dunque 3 mesi gratuiti, a chi indovina il pronostico sul governo. Ma, che tu dire, ce l'hai, veramente un giro di boa al passo coi tempi. Ce l'hai Alessandra, un pronostico? Non ci aspettavamo altro. Ecco, immaginavo la domanda del direttore. Alessandra, il direttore ci sta chiedendo un pronostico, quindi siamo passati qualche mese fa facevamo i pronostici sulle partite dei mondiali. Caccio. Alessandra, dai. Io ho un pronostico? Sì. No, secondo me non arriveranno al governo per dicembre. Io ricordo l'ultimo anno che ero in Belgio, dunque le elezioni del 2007 hanno partorito un governo dopo 9 mesi. Qui siamo ancora lontani dai 9 mesi, ma soprattutto la battuta d'arresto di lunedì è pesante, e soprattutto uno degli attori, se non l'attore principale quest'anno, è un osso duro, per cui secondo me... Secondo te di nuovo a elezioni? Giusto per continuare questa parentesi, a me interessava molto sapere se si va di nuovo a elezioni, potrebbe essere un plebiscito pro contro l'NVA? Ma sai che non lo so, perché lo diceva anche David in studio, ma che cosa voteranno? Beh, si sono, cioè, che voto esprimi a questo punto? Come dicevo, se l'attenzione sarà incentrata su pro o contro la separazione, quindi sarà davvero un plebiscito, allora molti di quelli che hanno votato in precedenza la formazione separatista, ma non con lo spirito poi di volersi separare, ma soltanto per un voto di protesta, così un po' tra virgolette leghista, ora di fronte a un fatto compiuto di tanti mesi senza governo magari ci pensa due volte. Potrebbe essere una chiave di lettura. Sì, anche se io sinceramente sono un po' pessimista con la tua chiave di lettura, nel senso che comunque avevano già avuto un'esperienza di 9 mesi senza governo effettivo, in quanto all'epoca Verhofstadt era semplicemente un governo come l'attuale Le Term, che non poteva prendere provvedimenti politici o di un certo rilievo o di un certo spessore. Per cui la contestazione credo che sia già passata, la fase della contestazione. Questa è una scelta politica, quella di votare in questo modo. Per cui secondo me le elezioni a breve termine non potranno dare un risultato molto diverso o comunque in questa direzione. Magari accentueranno la direzione, così sarà più facile formare un governo. Nella parte francofona manca comunque un partito separatista che potrebbe sedersi al tavolo e facilitare in un certo senso la controparte alla NVA. Il Belgio è il paese in grado di darsi una riforma costituzionale, secondo voi, prima di andare al voto? Perché il problema poi alla fine di questo notevole immobilismo del paese è che ci sono talmente tanti gradi istituzionali, tanti livelli divisi per regioni, senz'altro, divisi per lingua. Questo non permette un aggiornamento fluido del paese. Il paese è immobilizzato perché ha una struttura costituzionale paralizzante. Probabilmente se si andasse prima a fare manovre di modifica dell'impianto costituzionale, io parlo da ignorante, ci mancherebbe, parlo da cittadino, ma magari potrebbe essere una soluzione per darsi poi, con un nuovo impianto costituzionale, una nuova legge elettorale, un meccanismo più facile per prendere decisioni con più fluidità e magari andare a favore anche del governo stesso, cioè della governabilità del paese. Non lo so, quello che a me risulta, quello che mi fa rimanere perplessa è il fatto che in più di 100 giorni di negoziati non siano arrivati a formare un governo. Ma perché? Perché il punto non era formare un governo, ma fare la riforma istituzionale. Dunque, fare una riforma istituzionale profonda, molto profonda, come quella che la NVA richiede, prima ancora di formare un governo. Per cui il benessere del paese passa forse in secondo piano rispetto al federalismo o comunque un... non lo so. Ma al di là di questo rimane soltanto la forza. Cioè, se non si riesce per via democratica, attraverso le urne, a cambiare né il governo né la Costituzione, e quindi tutto l'impianto delle varie istituzioni che ci sono, ma una di queste forze chiede la dissoluzione della Costituzione, e non potendoci arrivare per vie legittime, dovrà arrivarci in qualche modo per via illegittima. O questa forza dovrà smettere di prendere voti. No, se tutte le forze si accordano per procedere a questa separazione per via legittima. Esatto, perché non dimentichiamo che comunque... Quindi non è soltanto l'NVA, allora, pro separazione. Non parliamo di pro separazione, però come diceva David, al momento un cambiamento significativo è che ora i partiti francofoni riconoscono che potrebbe essere una possibilità, è un qualcosa che non vogliono, ma mi sembra di capire che ora sia una possibilità contemplata. È una presa di coscienza, ma quello che sarà molto difficile è che le forze di mezzo paese, quindi più del 50% della popolazione, possa volere la scissione. l'Europa poi non ci sono altri esempi, uno ce l'abbiamo anche in casa in Italia, come vediamo, nonostante i toni, quasi gli strappi alla Costituzione, alla fine si è fatto ben poco, e se si farà sarà a livello fiscale. Comunque penso che siamo arrivati alle 21.47. Beh, comunque che post commenti non male. Post commenti dallo studio, ma sicuramente ovviamente in trasmissione continueremo a seguire sempre da vicino quello che succede. E non ci resta quindi che chiudere Giro di Boa per questa prima puntata della nuova stagione, non ci resta che dare l'appuntamento ai nostri radioascoltatori per la settimana prossima e non mi resta che introdurre anche l'inizio della nuova stagione di Onde Corte, giro nell'Europa del sociale, trasmissione curata da Maurizio Molinari, che come i nostri radioascoltatori sanno va in onda tutti i giovedì sera, da quest'ora più o meno fino alle 22. Onde Corte, e noi ci risentiamo la settimana prossima.